Pietro, ritornato dalla messa, sì. No, non sono ritornato dalla messa. Fatto, ma cosa è successo? Niente. Ti ha appena alzato? No, io sono dalle 7 in piedi, non pensi che mi alzo tardi. Vabbè, meno male che ci sei tu, meno male che ci sei niente che tira la carretta. Sì, se no già è incasinato questa Italia. Ai. Dove sei, a casa? Sì, e tu dove sei? Io a casa. Astronauti. Ma se mi sei arrivato più basso, adesso non lo so. Piazza Astronauti, è possibile che sia stata anche l'antenna. O sono io? Io stamattina, guarda, prima priorità mettere l'antenna, saldare, fissare l'antenna, no? Vedi come arrivo, perché c'è un terrazzo più alto, ne vedrai. Avanti. Claudio Sparviero, parlato comunque adesso, la macchina di servizio, la KB23, il microfono normale, mi ascolti? Sì che ti ascolto, avanti, va bene. Come va la macchina di servizio? Stamattina ho messo la base magnetica, siamo qua tutti in Piazza Vessini, se vuoi salire. Ho messo la base magnetica con un'antenna che ho trovato in garage e la KB23. Già sta uscendo bene, se lo sapevo ero io stamane, ho fatto un giro col bambino, l'ho portato ai giardini, adesso sono rientrato a casa, capito? E noi la domenica mattina siamo tutti qua, ci sono io, Gianni, Leoncino, mia, Antonello, Baracuga, è arrivato adesso, l'altalino Alfa 1, Antonello Motopompa, tutti qua siamo lì. Comunque c'è bene che sta KB23, col microfono della Gay in quinto lo sto usando. No, già c'è bene, già se poi arrivi qua 9:20, quindi va benissimo. Ciao anche Antonio, scendo dalla macchina, andiamo a prendere un caffè, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ok, a dopo, buon caffè, poi non so se ci passo, sarà difficile, potrebbe essere, là, che c'è i bambini qua in circolazione. A dopo, dai, saluto a tutti. Ciao! Abbiamo salutato tutti quanti. Brizio. E mo. Se la stacchi con la salta. No, per il momento rimane lì, non lo so. Dipende, non lo so. Al momento rimane lì. Devo fare ancora alcune prove. Poi, ma tanto io per il momento lo uso su altre frequenze, quindi non mi serve, capito? Sì, già sta andando tutta. Solo ovviamente che ogni volta che vai su alcune frequenze, chi più chi meno, secondo come ti sposta devi sempre accordare ovviamente, no? Vabbè, se ne hanno dovete solo ascoltare assolutamente. Quindi già va bene, non c'è problema. Solo che volevo vedere un attimino qualche di Polo come si deve, blu. E ho visto, se li fanno pagare su internet, usiamo almeno 80 euro. Non me ne volevo fare uno solo per i per controllare. Vediamo un attimino, non so, devo vedere un attimino come modificare un attimino, però è troppo grande, diventa troppo grande, capito? Adesso vediamo se lo faccio, come lo faccio, non lo so, volevo fare qualche altra prova, ogni volta sto provando, facendo, balle piene, questo già sta andando, però due bracci inizia a essere troppo complicato, capito? Parola. Il cavo elettrico non va bene o va bene? Va bene il cavo elettrico, solo per la calata metti il cavo con l'impedenza, per il resto ci serve un semplice cavo. Ma cosa metti, 2,5 o 1,5? Va bene tutti e due, metti 2,5 non sbaglio, ma 1,5 va bene, ci sono anche di poli fatti con cavi di di telefono. Roger, cosa prevede la mattina? Niente, io fra un po', adesso non so cosa fare, poi pranzerò e poi vado a lavoro. Ma stamattina piano di battaglia. Però... metti due staff e la monti, basta, senza tiranti né niente, non la metti altissima, va più che bene. Ho capito, se la metti lì e via. Dove ti raffondi? Ai. Dici, quali ci sarei a prenderti un caffè in piazza Vecchia? Negativo, perché c'è un tre queste cose, no, con vero piacere, ma ritardo tutto. Dici, adesso vedo, io va, ti chiamo dopo, andavo dalla macchina, qua adesso voglio vedere loro cosa vogliono fare e poi vediamo. Io c'ero già poco fa a Piazza Vecchia, no, voglio vedere loro cosa vogliono fare qui, adesso vediamo un attimino se dove dobbiamo andare, in base a quello mi muovo. Okay, vediamo dopo, ciao. Ciao. 10 Gigio Vulcano. Ciao a dopo. Tower, dove sei? E tu sei una torre piccolina però, eh. Torretta, una torretta. E allora ti riporti bene, quando ne avrai 60 sarai praticamente come uno di 30. E dimmi. Tanto bello. E allora? Mi scende a controllare un militare RF. Controllando che cosa un RF? Un militare terrestre. Ah, non fu un... La macchina aveva 88 anni, non riesce a farlo andare. Ma cos'è, non ti esce la schermata nel televisore o non fa la scansione? Siccome ha toccato il tasto TV radio, ma c'è il radio, e dice che non tocca il tasto TV radio. E da qui c'è a casa mia, ragazzi, ci metto 5 minuti da andare. Io non sono al quadrato, perché non sali? Tu già me sto andando dal quadrato io. Ho fatto un po' di modifiche, un po' di cose, ma non sono riuscito a capire dove intervenire, magari non si può fare, però adesso sto pensando, se riesco a risolvere quel problema è perfetto, se no lo devo, non devo esagerare col volume e quindi per legato come tengo. Stavo a indicare, io invece sto andando a trovare mia sorella a 5 minuti e poi me ne vado anche a mangiare. Vado, prendo la famiglia, la porto da mia suocera, che poi così mia moglie ha compagnia, e lo vado a trappacco, così se oggi è domenica, vediamo un attimo, tutto tranquillo, se deve essere solo... Vedi un attimino, così magari trovo più tardi, magari dopo cena, trovo il tempo di leggermi qualche altro paragrafetto, ripassare, dai, che se lo devo dare per cavolo di esame, ma non ho speranze, dai, non sono, come si può dire, non sono speranzoso, dai, non me la sento. La speranza è l'ultima a morire. Speriamo che si senta. Senti, chi è? Eia. Balacco, non ho comprato cosa hai detto, dimmi, quanto? Ma secondo me se non è stata capita, tanto è. Io stavo parlando di Antonello Pomponi e loro stavano parlando di te, quindi ho detto che Antonello Pomponi aveva 47 anni, si chiama Vai che più giovane aveva 37, ma a casa se c'ha anche i capelli bianchi. E insomma non ci siamo capiti, dai, stiamo parlando di persone diverse. Sbagli, siamo con il 75. Oh dai, io vi saluto che sono arrivati sotto casa, che salgo a casa, che devo prendere la borsa col PC e poi prendere la famiglia e andare a pranzo. Allora vi saluto tutti quanti e alle prossime. Ciao Fabrizio, ci sentiamo. Beh ragazzi, tutti morti siete, Antonello, c'è anche Leoncino, dove sei? Gambio? Leoncino non risponde, Antonello ci sei ancora? Antonello? Buongiorno, Salvatore da questa parte, chi sei? Ciao Salvatore, già io più sono in radio, che vai, Bolinocchi, Bobo, Salvatore, ti calmi. Ciao carissimo, dove sei? A Piandana sono, sto andando in quell'istituto che c'è San Nicola. Ah, capo, ho capito, visita? Purtroppo ho una mia sorella lì che è in coma, già da 2 anni e vado ogni domenica, ho l'appuntamento ufficio. Oh poverina, vabbè, doveroso come minimo, ho capito. Salvatore, buongiorno. E chiedi a me che è questo scampanellio, buongiorno, chi sei? Illumina il novinello, lo permetti sempre nel cartello. Ma amico Giuseppe, dove sei? Sulla luna? Ehi, a cappa. Che bello che te lo dirvi. Beh, vi lascio, ciao Giuseppe, ciao anche a te Salvatore, scusate ma sono arrivato, Buon proseguimento, ci sentiamo dopo pranzo, fatevi sentire popolate di nuovo scalare 10, ciao. Ok Gianni, ciao, buona giornata anche a te. Giuseppe, con che cosa stai modulando? Con il tornado il 2009. Bello, accidenti, ma dove sei, in DM? Cappa. E dove stai andando? Tutto quanto a casa, hai capito, tutto a casa e avresti mi dato qualcosa di carica. Che bello che te l'ho divertito. Sembrava quelle delle giostre. Mi piace, melodie sono simpatiche. E poi ieri a un certo punto te ne sei andato, manco va e non ti ho più sentito. Ma l'ho chiamato urgente, sono uscito e poi non ho più ripreso perché sono diventato un bel tardi, capito? Ho capito. Cos'è che volevo dire? No, io invece stavo facendo un giro in FM, c'è una marea, arrivano di trasmissioni di tutti i tipi. Abbiamo il rendezvous tra poco, infatti ci stiamo preparando, siamo ospiti. Ciao, Padre Roger, allora, sembra una bella giornata oggi, se non ci fosse questo venticello ci sarebbe veramente bene. Eia. Infatti sono dopo pranzo, penso di prendere la moto, tanto devo andare a restituire un DVD che ho preso ieri in videoteca. Bellino tra l'altro, non pensavo fosse così, pensavo fosse una storia di tutt'altro genere. E lo vado a restituire, ne approfitto con la moto, faccio un giretto e lo vado a restituire. Dove eravate? Su alla Quadrata oggi? Cappa. Chi c'era? Eravamo io, Claudio, Gianni Lo Piorru, poi c'era Fabrizio Chiriato e Alessio Pomponio e basta, dai. Oggi invece stavamo facendo una camminata con degli amici, ingannando il tempo in attesa che finisse l'orario del catechismo. E quindi niente, però probabilmente domenica prossima che sono libero faccio un salto anch'io. Non c'è problema, ok, dai, solita ora 10:30 massimo, 11:15, siamo tutti quanti lì. Infatti, perché un orario va bene, perché a quell'ora è finita la messa e ci si può muovere un po' più indipendenti. Va bene, dai, ti saluto, dai, ci sentiamo al limite dopo la casa, dai. Ciao Pa Giuseppe, ok, a dopo, ciao. Ciao. Bonjour. Bonjour. Ciao, chi sei? Salvatore da questa parte, buongiorno. Ciao. Ciao Domenico, forse c'è anche un altro amico, avanti. No, Roberto, sono arrivato a casa, ho parlato un po'. Dai, da Pantaufa. Stasera devi uscire o a casa sei? A Domo sono, a Domo. Sotto casa in macchina, sono rientrato dal lavoro. Oh, è vero che ieri me l'avevi detto che oggi rientravi. E beh, com'è andata? Benissimo, nessun problema. Sono contento per te, almeno rientri anche un'ora decente oggi. Infatti, mi sono messo la base magnetica perché c'avevo appuntamento con i ragazzi e sto usando la KB23 col microfono normale. Ah, ti sei sento benissimo, tranquillissimo. Me l'ha detto Giuseppe che vi siete visti stamani. Io invece stavo facendo una passeggiata con gli amici, ne abbiamo approfittato nell'ora di pausa del catechismo prima di andare a riprendere le figliolanze. Se ce la faccio però domenica prossima, che ho l'ora libera, mi ha detto Giuseppe verso che ora vi trovate, spero di riuscire a salire e vedervi di persona. Io già facendo ci sentiamo da casa. Cappa, cappa cla, a dopo. Non ti perdi niente anche a vedere la Claudia, non ti perdi niente. Sei un mostro. Guarda, meglio niente proprio per vedere la Claudia, guarda. E come passare via del portatore della notte? No. Sì, ma la notte ci sono le signorine lì. E c'è sempre quella lì che brutta che non fa vedere, ma con quelle tette grandi grandi, vedere la Claudia è la stessa cosa. No, io purtroppo la notte non giro ancora da quelle parti, Aia, si scherza, sì, io sono stato ascoltando, se no mi avrebbero andato a quel posto. Cappa. Oh, iaia. Mamma mia, oggi stavo sentendo tante di quelle trasmissioni in FM che era una... c'era l'imbarazzo della scelta. Ah, così è. No, io proprio l'ho acceso poco fa perché non ne ho, c'ho sempre il momento nella mia vettura, adesso sono andato a prendermi il furgone perché dovevo portare un moto coltivatore e allora l'ho acceso, questo qui del mio collega. Ma motocoltivatore tuo? No, lo sto vendendo. Era di una mia carissima amica di famiglia, lo stava usando e l'ho venduto a questo collega, a questo amico. Cappa, io ne ho regalato uno a un amico. E io l'ho venduto. È nuovo, cioè, è tutto rigenito, però è nuovo, ma è usato, figura. Sai che io ne avevo uno di quelli dove operavi seduto, però. Ah, quello lì è bello. Eia, Gagliardo. C'erano le frese davanti e poi i rulli di trascinamento dietro. Ho capito, ho capito. Poi in utilizzo e altre questioni l'abbiamo regalato direttamente. Ma tanti anni, tanti anni, però sempre impeccabile nella sua macinatura. Sì, sono delle macchine, questo qui è un grillo, ci avrà anni già, l'hanno comprato senza rendersene conto che dal terreno lì non si poteva zappare con una così perché è tutto roccia, è parcheggiato. Bello, soprattutto complimenti a chi gliel'ha consigliato, Sì, pagato la barca di soldi, cazzo, tu puoi immaginare 11 cavalli, pagato la barca di soldi, lui ben sempre buttato perché non si poteva volare, che si scappava come prendeva le pietre, cazzo, ha rotto tutto. E allora, lascialo qua, dai, facciamo soldi, qualcosa, recuperiamo. Certo, certo. Quando ce l'hai così petroso hai bisogno anche di massa, proprio di peso per che lo tenga basso. È chiaro che siccome non hanno ammortizzatori è chiaramente il loro fine è anche non averne per poter lavorare con la sua massa e scaricare tutta la potenza nel terreno per farlo saltare. È evidente che salta che è una bellezza quando trova roccia, è evidente. Però ovviamente non sei anche leggerino, salta molto di più. Ma quello lì è tutto roccia, quel terreno lì è tutto roccia, non va bene, va mancati, fa schifo, proprio la partita non si è prestata e si smanda le mani. Certo, poi se sotto il primo strato sotto sarà tuffo, è tutto uno zoccolo di tuffo. E vedevo tutto più fuori, ma hai tu. E hai voglia allora rullare prima di sminuzzarlo? No, ci vogliono altre macchine, c'è poco da fare. E quanto l'aveva pagato? Guarda, non te lo so dire quanto l'aveva pagato, proprio so che dice con la mano, adesso stavo guardando su internet, sono quelle da 1500 euro, 1200 euro, perché è un grillo, è molto importante la vita. Cappa, un 11 cavalli mi stavi dicendo. Ma cos'è, della MAB? No, si chiama Grillo, Grillo si chiama. Motore Lombardini? Ma è il 14 cavalli o è l'11? 11 cavalli. Ho capito, ne ho capito, sì. Massa ci vuole, per lavorare bene ci vuole massa. Massa, peso proprio, peso della macchina, se no altrimenti non salta fuori. Ne aveva comprato uno, il suocero, hanno tre cavalli, la cinghia si spacca sempre, però guarda, se lo vuoi c'è questo qui a 500 euro, da rimettere qualcosa a posto, io questo qui gli ho messo la benzina, una tirata di iPhone e ho messo il motto su. Ma quella è a miscela, non è diesel. A benzina, benzina, benzina. E cappa. Ma è anche un bel costo, perché quelli comunque consumano. Sì, cosa io questo motore qua lo usavo nella cisterna, non pensare che consumi io 2 litri di gasolio di benzina, scaricavo i 12.000 litri di cose, me ne avanzava. Ma nella cisterna ho usato così, quando è usato come motore per lavorare il terreno richiede molto di più, no? Sì, però questi motori sono autoregolanti, capito? Non è che tu li dai tutta l'accelerata e lui fa così, in base allo sforzo sia accelerato, capito? Ah, cappa, ho capito, ma cosa sei in stazione fissa, dov'è? No, negativo, il furgone sono arrivato qua sotto casa, qua sotto la di Pisa, diciamo, là. E cappa. Cappa. Quindi stai per chiudere tutto e salire in casa. Positivo. Dai, io ti saluto, ci sentiamo. Volentieri, buon tutto, buona domenica a te e a tutto il tuo corea familiare. Ci risentiamo, ciao. Ciao Cla, ben arrivato, stiamo facendo una prova interessante. E che prova? Ho visto che senza toccare la, mettere l'auto through, quindi l'accordatore, l'antenna per com'è ai 30 mi segna 1,4, ai qui 27,075 1,1, 26,500 1,3, senza usare alcuna accordatura. Ma devi sapere che l'accordatura tu l'hai già fatta, quindi una volta che tu accordi lui ce lo memorizza, quindi tu puoi anche disinserirlo, non è che lo devi tenere inserito, non è un accordatore manuale, però un accordatore automatico, quindi c'è una memoria all'interno. Io una volta che io lo tengo sempre disinserito, ad esempio accordo solo sui canali alti e poi disinserisco, quando scendo nei canali bassi riaccordo e basta, però dall'1 al 40 io accordatore non ne uso, basta una volta solo, lui ti accorda per dire sul canale 5 e rimane inaccordata dal 5 per dire al 20, al 30, anche se è disinserito. Ah, anche se quell'auto true non è premuto. Certo, proprio te ne fai fatto la cordatura che lui ha memorizzato, è in automatico, non è che ha un automatismo, tutto quello che è automatismo c'ha una memoria, quindi lui memorizza e tiene memoria e ti dà la cordata per tutti i canali che a te servono, dopodiché quando tu superi la cordatura che lui ha fatto, che a memoria ti richiede nuovamente di accordare, accordi e disinserisci, non c'è bisogno di averlo inserito. E allora perché se io adesso non è inserito e mi sta segnando 1,4, non è inserito auto true. Se io lo premo scende un pochettino. Io avevo sbagliato il microfono. Allora tu ci vuoi fare la prova, vai accordici un canale 20 per dire, no? Poi torni al canale 10 senza accordatore, accordi sul canale 20 e disinserisci, vai sul canale 10 e poi guarda cosa ti segna. Aspetta che faccio la prova, vado. Allora. Intanto che sei qua, dimmi com'è questa modulazione, Class. Bene, ciao Marco. Ma è la mia modulazione di sempre quando entro qua con questo apparato. Sì, all'incirca sì, va bene. Bella amplificata, forte oppure no? Medio, bassi, abbastanza buono, gli acuti ci sono, questo vanno col 430, bene, va. Buongiorno e ben rientrato tra noi. Sì, ciao Gianni. sentiti, buona domenica anche a quelli che sono in ascolto. Capito, lui del Bhutan tranquillo, era in giro, sereno, e gli ho dovuto tirare una tirata ficcata. Va bene, io stamattina ero qua a dare un po' di mattana in giro. Va bene, allora c'è anche entrata anche Roberto, l'antenna a lui che farà girare per il resto degli amici. Buongiorno a tutti, dai, sono entrato un attimino, senti, a Marco, a Claudia, così, sentito questa nuova modulazione, mi sembra di Alberto Lupo, di una voce proprio corposa, bella, bella piena, un po' presenza di tonalità basse, comunque va benissimo. Marco, ciao Claudio, mi hai sentito, poi di subito ho sentito a Gianni, poi l'altro non ho capito chi sia, avanti e chi tocca. C'è Salvatore, te la facciamo una prova, ciao Robert, ben ascoltato, ciao anche a Gian. E io Marco, mi trovo e facciamo anche tante. Passo anche lì a vedere un qualcosa qua che ha cambiato, quando c'è 5 minuti, tanto ci dobbiamo vedere, a giorni ci dovremo vedere, aspettando stiamo. E Salvatore, fatto la prova. Roberto sta cercando il canale per poter accordare quei disinserire, io fortunatamente non ho questi problemi. È come quell'arabo che poi è entrato Sierra Shishu e gli ha dato due colpi in arabo e poi me l'ha passato e finalmente in 5 minuti ha imparato subito a parlare italiano con me, perché gli ho detto no, se parli italiano va bene, ti do quelle, altrimenti ciccia, ci sentiamo per telefono. Sono su Skype. Va bene, ma Shushu è un po' assente in questi giorni, ho provato anche in macchina, ci siamo sentiti ieri o avantieri, insomma, un paio di volte, ma negativo, ha fatto addirittura uno dei suoi ingressi giorni fa, lo smorone qua, la bimbomba, non c'è mai nessuno, e poi lui, come sempre, quando fai l'appello è assente a tutte le ore. Beh, vabbè, ho rimesso la macchina l'antenna in azione sulla cappotta e allora stavo facendo un po' di prove. Però mi hanno già subito aggredito, mi ha detto per carità questa antenna di questa macchina, ma cosa me ne fotte? A me l'importante è che mi diverta, fare due chiacchiere quando c'ho voglia, così. Era un periodo che era un po' assente, immobile. Invece ci vuole. Dai, va bene. La signora ha già chiamato un paio di volte, ma mi sa che bisogna che vada, altrimenti gli spaghetti numero 3 diventano troppo morbidi. L'antenna Gianni doppio room, ne approfitto per salutarvi, buona domenica a tutti. Ciao ciao, Marco Scorpio, QRT, oh yeah. No Marco, ci aggiorniamo in settimana, vai. Ci aggiorniamo in settimana, vediamo cosa salta fuori, ti faccio un colpo di citofono, poi ci vediamo. Ciao, buon carico a te famiglia e alle prossime, grazie per essere entrato, quando vuoi siamo qua, Roberto. Scusate un attimo, dai, saluto anche io, dai, ciao Marco e ciao tutti, ciao Claudio, Gianni e compagnia, mi hanno chiamato anche a me mangiare, sono entrato un attimino, ciao ciao, ci risentiamo magari più tardi. Ma ciao Robert, dai, mi hai sentito, già te l'ho portato a tempo, avanti! E vediamo se c'è Salvatore, ciao Robert, alle prossime, ci sentiamo anche con te, dai, vediamo un po' se c'è Salvatore. Però sto facendo delle prove che non l'ho ancora fatto, perché lui è convinto di tenere sempre l'accordatore inserito sul 4340, invece cosa che io non faccio, perché una volta che ho l'accordatura disinserisco e mi rimane accordato su tutti i 40 canali, a meno che non vado oltre il 40, allora se mi richiede l'accordatura accordo e poi disinserisco lo stesso, non ha nessun significato tenere l'accordatore inserito, vuol dire che l'antenna non sta andando bene. Quando l'antenna va bene non c'è bisogno di nessun accordatore, a meno che non ti richieda delle frequenze particolari e quindi giustamente accordi e poi disinserisci. Salvatore, sto facendo questa prova, già io mi sono fermato a pensare, poi accompagnato a Gabriele, sono andato a timbrare e mi sono arrivato adesso. E lui? Ciao! Sì, già. Mi tocca mangiare adesso, se è proprio sera non ci siamo, ho preso gli impegni e non sapevo niente, quindi alla prossima settimana, se sei disponibile, anche boh, vedi tu, non c'è nessun problema per me. Io stasera alle 6:30, alle 7 devo uscire, capito? Quindi non bisogno, non capire qua 5 minuti, andate, mi fa piacere, se rimane un pochino, facciamo due chiacchiere, una cosettina, capito come? Quindi per quello che ho letto, ci organizziamo meglio, tanto non c'è tutta questa fretta. Non c'è tutta questa fretta, ho già tutto in ordine, è tutto organizzato, però dobbiamo farla perché devo cambiare la foto sul profilo. Salvatore, sei rientrato? Oh, già, ci sentiamo stasera se coincide. No, Salvatore sta cercando ancora di mettere un po' a posto la cordatura del 440, va bene, d'accordo. Dove sei, Domi? Come sei in giro? Ma in macchina sei io col lavoro, no? Domi? Domi? Sono un po' ancora di sotto, un pochettino negativo sarà, capito? Ehi, allora ti saluto prima che ti perdo, vai. Che vado a pranzo anch'io. Se coincide ci sentiamo stasera, Domi. Entrare in funzione nel momento in cui tu vai fuori banda, vai oltre quello la correttura dal canale 1 al canale 20, tu la correttura devi tenere disinserita. Se poi tu vai dal canale 20 al canale 45, allora ti richiede nuovamente la correttura, però non è detto che tu devi tenere sempre la correttura inserita. Perlomeno io non lo tengo inserito, perché la taratura dell'antenna è stata fatta a centrobanda. Se tu fai la taratura a centrobanda nel canale 20, quindi dal 20 all'1 deve risultare 1 e 1, dal 20 al 40 deve risultare 1 e 1, è normale, no? Se poi ti sposti nel canale 45 è chiaro che le stazionarie aumentano perché sei fuori taratura. Ok, dunque, quindi allora ho visto che dalle caratteristiche dell'antenna questa lavora dai 24,690 ai 30. Quindi il mio centrobanda lo devo trovare attorno ai 27, quindi ai 27,6 dovrebbe essere il mio centrobanda. Tutto è che stare un'antenna da 24, non pensa niente, ma perché sono bande barche che non le userai mai, capito? Quindi non pensa niente. La taratura dell'antenna con la 27 va da 26 a 28, basta. Quindi tu devi cercare un centrobanda che vada da 26 a 28 e fare la taratura dell'antenna, dopodiché è fatta la taratura dell'antenna, vai nel canale 20 e riprovi con la correttore automatico. Se l'altro correttore automatico ti richiede la correttura, gliela dai. Una volta che tu gliela date, lo disinserisci, lui deve rimanere fisso dal canale 20 al canale 40, dal canale 1 al canale 20, fisso come quello che ho io. Se non c'è un problema dell'antenna, c'è la centratura, la taratura dell'antenna non è a centrobanda. Infatti sicuramente tu l'avrai tarata a partire dal 24, che non te ne fa niente, farò a partire dal 26 al 28. Tanto le fatte le tarature da 24 a 25 a 30, non serve a niente, siamo ancora nella 27, quindi se quell'antenna deve lavorare solo in 27 o similare anche a 28 quando sarà, le fai sempre una taratura intermedia. Sempre una taratura intermedia dal canale 1 al canale 40, dal canale 40 al canale 80, e vedrai che la correttore non te lo richiederà mai. La mia è tarata così, ti ripeto, io uso la correttore inserito nel 440 solo esclusivamente se mi sposto oltre i 40 canali, allora me lo richiede, do un colpettino, accordo immediatamente e poi lo disinserisco sempre, non lo tengo mai inserito. È un controsenso, uno perché puoi rovinarlo e due perché non è un lavoro che va bene, serve per accordare e rimanere sempre disinserito. Anche la T250 che è in automatico parte esclusivamente qui dal canale 1 al canale 40, lui non parte perché è in automatico, diverso da tu devi schiacciare il pulsante e questo è completamente in automatico a portante. Quando mi sposto nel canale 45 schiaccio la portante, lui parte in automatico, accorda e si rimette in sesto. E quindi allora io devo quindi considerare il mio, non il centrobanda del range di lavoro dell'antenna, ma il centrobanda del rispetto alle frequenze, al range di frequenze che devo utilizzare, giusto? Esatto, se tu fai il range dell'antenna hai sempre perso, perché lui ti richiederà sempre la correttura automatico. Se tu invece le dai, come ti ho detto io, il range dall'1 al 40, lui non te lo richiederà mai, perché una volta che lui memorizza, il microprocessore dell'automatico è stabile su quella taratura, te lo richiederà quando tu andrai fuori da quella taratura che lui ha già fatto. Ok, quindi per avere il range dall'1 al 40 chiaramente devo cercarmi la frequenza che è a metà tra l'1 e il 40. Esatto, è il 20, il canale 20. Ok, il canale 20. Poi la taratura dell'antenna, perché fa la partire da 24 a 30? Tu la fai partire da 26 a 28, in modo che abbia quello spazio giusto da poter tirare la garanzia che la correttore lavora in quella maniera, perché attenzione, la correttore è 440 sotto un'antenna verticale, non è che accorda da 24 a 30, non me lo piace molto, sembra che ti stia accordando, ma ti sta accordando le stazionarie del cavo, in antenna ce li hai sempre stazionarie, perché la correttore del 440 va da 26 a 30, non va da 0 a 30, va da 0 a 30 in bande amatoriali, ma in 27 lui ti accorda le stazionarie da 26, che dovrebbe essere da 27, però anziché da 27 lui parte da 26 e tra Sì, a 28.805, basta. E ti accorda anche le trattenate in antenna. Dal momento in cui te lo fai partire sotto, lui ha un range di arrivo e si ferma a quella taratura. Tanto è vero che il tuo strumento, sicuramente, quando tu metti in SWR, non va mai a zero. Ti segna sempre dei rossi, giusto? Sì, tranne che in questo momento che con il pulsante auto true abilitato mi segna uno, però se io lo tolgo sì, segna sempre un rosso. Sì, non lo devo fare perché se io ho taratto, ho fatto a me la correttore 27.075 e mi accorda le stazionali a zero, cioè le toglie completamente, io disinserisco la correttore, le stazionali sono a zero, non è che mi salgono 1.3. Perché questo a te te lo fa? Te lo fa perché la tua taratura dell'antenna, quindi l'hai fatta partire troppo sotto, e il range della correttore ti dà le stazionali che tu hai effettivamente in antenna, quindi ti accorda solo quelle del cavo. Se invece tu fai la taratura da 26 a 28.805 dell'antenna e poi vai a lavorare con la correttore, se la correttore ti toglie le stazionali a 27.085, te le annulla, te le mette a zero, tu disinserisci, lo strumento deve rimanere a zero, non deve salire a 1.3 come il mio rimane a zero. Se le toglie, le toglie, se non le toglie è inutile che me le segni. Sì. Io non riuscivo ad applicare correttamente questo concetto, dal che ti dico immediatamente che quindi è un'operazione che ho fatto in maniera erronea. Sì, perché io sono andato molto più su, per cui c'ha un parametro, un range completamente sballato, assolutamente. Il range ti poteva servire, Salvatore, nel momento in cui tu usavi quell'antenna in bande amatoriali, quindi la usavi a 28, la usavi a 24 che è una banda parte, allora va bene, sì, ma la taro da 24 a 30, ma in questo caso che tu la usi per la 27 non è significato avere una caratura d'antenna troppo sotto, quando a te ti serve un centrobanda da 26 a 28. Linea di massima, insomma, dico la 26-28 perché è la soglia della 27, quindi se noi dobbiamo andare a 27-805 tu sai che l'antenna è tarata sino a 28 e quindi non hai bisogno di tenere il correttore in automatico, è tutto lì il problema, no? Capito? Infatti la mantola che la uso solo esclusivamente in 11 e 10 metri è tarata da 26-28. Se poi mi sposto a 28.400 in 10 metri, non me lo richiede neanche la correttore perché è talmente vicina alla banda che non me la richiede. Oppure se mi sta segnando, anziché 1.1, 1.2, 1.3, ci lavoro lo stesso anche senza correttore, oppure le abbatto, però me le porto a zero. Nel caso tuo non te lo puoi mai fare questo perché la tua taratura dell'antenna è tarata troppo giù, è a 24. Quindi il range è troppo basso, devi cercare di portarlo su almeno a 26 e rifare allora la taratura con la correttore automatica. Hai preso l'idea? Sì, devo rifarlo. Hai reso l'idea. Io ho fatto un discorso semplicemente di range sull'antenna, ma che non ha senso. No, non ha senso. Se l'ha fatto così no, perché è inutilizzabile quella gamma di frequenza per te in questo momento, quindi non ha nessun significato averla così bassa. Devi cercare di portartela su e avere sempre la correttore in uso al momento in cui te lo richiede, ma in un controsenso lavorare con la correttore automatico sempre inserito, quindi l'antenna non sta lavorando bene, anche perché hai una grossa perdita con una taratura del genere. Capito? Dai, sì, lo riprendiamo dopo questo discorso. Comunque lavoraci su, se hai problemi sono qua a tua disposizione. Si fa il range nuovo e si porta la 26 a 28 e tu vedrai che la correttore ti chiederà solo la correttura al momento in cui ti sposti oltre il canale 40 come faccio io. Se no non te lo può mai richiedere perché l'antenna ha un carico di centrobanda e quindi su quel centrobanda il range lavora. Sì, è stato chiarissimo. D'accordo, dai, buona carica allora ed eventualmente ci sentiamo più tardi se voglia e se coincide, ok? D'accordo. buon sabato, buon pranzo anche a te famiglia, ci sentiamo dopo, ciao. Grazie carissimo, a tutti quanti, ciao ciao. Attenzione Antonello, buon pugno, c'è copri canale 10, cambio. Attenzione Antonello, buon pugno, c'è copri canale 10, cambio. Regola. Attento Giuseppe. Buongiorno, dimmi Gigi. No, stavo provando questo apparatino che l'ho ritirato. Dimmi se sta andando bene o come sta andando. Sta andando bene Gigi, sta andando benissimo. Arrivi 9:10, radio 5 qua. Positivo, non ho capito Santiago quanto? Il segnale è 5, la radio è 9:10. Non so, la radio poi è 4, 5, 2, 1, la radio 5, il segnale 9:10. Atto, segnale la radio segnale. Benissimo. Io sto preparando un microfono per questa radio qua e vediamo se va bene. Quello di prima andava bene, questo non mi piace. c'era anche Luca. Lasciami incrementare quella questione là e poi ci vediamo in verticale e ne parliamo, Luca. Bene, non è per adesso, comunque ti faccio sapere qualcosa. E vabbè, ti ringrazio per adesso, Luca, non c'è problema, capito? Non c'è problema, lo sai che quando arriverà questo di là, spero di che qualcosa si risolva, sperando che vada tutto per il meglio, capito, Luca? Sì, vabbè. Ma ti rendi conto, questa di Nassa rimane la vendere, cioè quella lì mi è trovato, vabbè. Ma ci sono qua, sono fatto. Allora, neanche il visto, oggi è domenica, provata. Porca buia. E io non stavo lavorando, stavo lavorando stamattina, poi verso le 11 e qualcosa sono arrivato a Piazza dei Sini, c'era tutta la greffa, mi sono fermato, ci avevamo fatto due chiacchiere, adesso mi pentrato, mi faccio il mio riposino fino alle 5 e poi verso le 7 devo uscire e ci sentiamo stanotte se coincide. Non ti fa niente la portata, Giuseppe, adesso lo sei attaccato. Non hai capito che ho attaccato? A me con il cazzo mi passa lui, non hai capito? A me, è la portante sua, non me ne frega più niente, non hai capito? Io lascio provolo e parlo sopra di lui, hai capito? Sì, alla grande, hai sempre avuto la portante, no? 8 per mezzo, tu sei 9:10. Ma a me, guarda, che può mettere portante, non le può mettere, non me ne frega niente, hai capito? Lo lascio perdere e dunque e faccio orecchie di mercante, hai capito? Tanto un handicappato io se arrivi qua, siamo un handicappato, ma meglio mi senti, sì. Alla grande, ma non hai capito che a me di lui, che a me è importante, no, ma è tutto inutile, hai capito? Io vivo la mia vita, lascio vivere e non devo litigare con nessuno, a me non ho tutti proprio cazzo. Poi quando c'è in città, metto importante, io faccio una cosa a me, trac, spengo e gioco è fatto. Mi. E dimmi lui. Adesso mi passo quest'altro microfono, devo avviare un microfono, taglielo questo apparato, guarda questo come. Tanto non lo taglia, va bene, bisogna vedere la sua. Ma taglielo come sta, com'è orecchiabile, si può, è buono come? Va bene, sì, ti ripeto, manca di tonalità alte, tutto bassi è. È chiaro, la radio si capisce o no? Come si capisce, io la capisco qua. Oh, per me è un po' satura, Gigi, a me è satura, la capisco un po' proprio come se dentro una botte di ricordo, hai capito? Una capullana, sì. A pulire. Antonello Pomponia. Che si metti là, Antonello? Il canale già è da saldo, e così lo piazzo. I tiranti. Leggermente pigliata, forse per quello che fa un po' di più. Metti lì perché c'è il vento in aumento. Che il vento sia, aveva avuto la notte a spaventarmi e sentire boom sopra il tetto. E non ti costa niente, cazzo, me l'aggiurate, buon vino, no? Se ne metti una maestrale, una greccale, e poi quello piccolino glielo leghi alla ciminiera lì sotto. Io sto per tenerlo fermo, ma metti di quello maestrale che è chiaro, intanto sono i venti che stanno tirando più di tutti su sassari. Sì, già dietro stava a mezz'oretta, adesso mi dico di digerire, capito? E poi salgo subito su e c'ho la scala, ho già preso la scala e così salgo sopra il tetto, faccio questo lavoro e poi me ne scendo subito, a fine poco più di freddo pure. E lì va di nuovo a muso, dove abbiamo tutti, poi non abbiamo morto, gli abbiamo preso l'ante, la drizia appena li metti in tira, in modo che se c'è il vento l'antenna rimane ferma, capito? Così non hai rotto le palle. Infatti già faccio così. Amagava, la pericola verme che c'è oggi ancora, questi canali romani non si può curvare per niente, quel verme 9, qualche cosa. Antonello, dimmi. Ah, se io ripiazzo quella cosa che c'ho in macchina qua a casa con quell'amministratore, va bene? Ti piazzi? La segretaria qua, va bene con quella alimentatore che mi ha dato. Guarda che se metti quella sequenza dell'alimentatore piglia fuoco all'alimentatore, tutto con un palo nuovo che 5 ampere è quello, non ce la fa, già giusto giusto ce la fa tirare il 3009 e assorbe 3 ampere. Figura di se ti metti la segretaria. Sì, ma non hai capito, non sto usando il tuo, sto usando il mio, quello da base, hai capito? Non c'entra niente, no, non puoi attaccare il lineare a casa con quell'alimentatore, è troppo piccolo. Superiore 12.6 volt. E c'entra, quello è la tensione, quello che ti dà, che in pratica ti sopporta il lineare, cioè in pratica quello che assorbe il lineare, 7 ampere non ce la fa, quello neanche è 5, ma nemmeno neanche 5 perché non è un alimentatore di Bertola, figurati, se attacca il lineare lo bruci subito con l'alimentatore. E cavolo, ci vuole un alimentatore più grande, a meno di 25 ampere. Sattoria, ci miglia, sono ordinato l'audio, appena c'è 50 euro sono ordinato il telefono. Quanto non vedo Giuseppe, cazzo, te l'ho detto, quando prendi questi obiettivi devi comprare un alimentatore. Poi vengo io, ti piazzo il lineare lì attaccato, tu quando accendi l'apparato accendi anche il lineare e vedi come ti esci anche lì tu. Adesso vediamo quanto me lo dà. Vediamo di comprarlo, adesso non mi ritiro con i soldi, adesso un piccolo lineare anche di 30 watt. E non 50 watt, non è quello il problema. 50 watt va benissimo, capito, da lì 50 watt sono più che sufficienti. Ma se le vanno bene, mi sembra più 10, Giuseppe, non è che l'importante è Santiago 8, non rimaniamo nel calcio. No, non frega niente, l'importante, capito? No, era giusto per sperimentare qualcosa di nuovo, a vedere se riesco a pompare molto di più, capito, fra. Io un pochino di più, perché va di più già va bene, non ci sono problemi, qualche battito in più fa sempre comodo, capito? Appa. Le due e mezza sono, signori, divertitevela, non proseguo, ci sentiamo più tardi, Giuseppe, mi faccio un riposino, mi sono bisogno da resie oggi. Ci sentiamo più tardi, dai, ciao, salutami Antonello, ciao Gigino Vulcà. Buonasera. Ciao già, ci sentiamo dopo, mi sono bucandi. E vai a riposarti, buona dormita, avanti, buonasera a tutti, dai. Ciao Gianni, Tokyo Ru. Rum. Ah, io ce lo beviamo un battita e cocco, oppure rum e cocca. Posso c'è il caffè a casa, non sono troppo bene, passerai. Ah, da solo vedi già. Tutta la famiglia, che so. Ma perché quando stavo rientrando ho visto la 250 che stavo uscendo con la macchina, non so tu, stava andando da qualche posto. Boh. Quando stavo andando da qualche parte. Gamma. Non so, già c'è a casa. Sicuramente stavo andando a mettercela fuori, dal garage. Ah, gamma. Avanti Gigino. E che sto facendo lavoretto già di questo tipo. Allora Giuseppe. Allora, sto bene, guarda, dovrebbe esserci Antonello Pomponio se non se n'è andato. Avanti Mariuccia. Mariucci. E Antonella Pomponia. Non c'è Giuseppe, siamo soli. Sento un bel ricordo, sono entrato per quello, invece sono tutti qua che piano piano. tutti a trovare a Bacco, non a Bacco, a Morfeo. Daffa. E voi che avete un ritmo, ai. Giù sono entrato. Esce, da tinti. Meccani. Se la riprenda, buonasera. Andegado, attesi. Andegado, appo. Componio, scusate, sto adesso. Eia. Circa il 500 S, diciamo, dove c'era il coso della radio? Dove si trova? Allora, dove c'è il trasformatore, quello grosso, quello grande, o il rosso, eccetera, adesso non me lo ricordo bene, c'è un trimmerino, c'è, proprio attaccato a quel trasformatore, c'è quel trimmer, lo pigli e lo giri, a destra o a sinistra, devi trovare, quello è l'LC, risulta in pratica vicino all'integrato KIA 7225P che c'è attaccato allo chassis. No. Ha due di modulazione, ne ha uno piccolo e uno più grande, giusto? E quello piccolo è l'alimentazione, la sapete, è quello, il più grosso, il trasformatore più grosso che c'è. In quello più grosso che c'è, ma il prime dove non ne ha, naturalmente quelli inquadrati vicino e basta. Sì, che c'è un trimmer, guarda bene che c'è un trimmer. Lì vicino al trasformatore c'è per forza. Quello che stavo guardando non lo vedete. Poco vecchio l'FM500S, ma via, ogni corpo che prende. Non dai. Ascolta, il 34S. Sì, ho capito, è 34 canali quello. Poi se li sposti il tappeto arancione che c'è nel commutatore dei canali, al centro, ti dà 34 canali sotto, 34 canali sopra. Bene, non ho capito cosa è sposto. C'è il commutatore dei canali, se ti guardi lo stampato, c'è un filo arancione al centro proprio, se quel filo lo tagli ti dà tutti e quattro, dall'1 al 34 normale, se invece lo riagganci ti dà i 9 canali sotto. Ma a me non mi interessa quello, mi interessa sapere qual è il trimmer, ma non lo vedo, cioè se lo metto un coso nero lì vicino al finale, boom. Un trimmer grande, c'è scritto 2x2 nel palco. Se non ce l'ho presente, comunque io mi ricordo che il trimmer è proprio attaccato al trasformatore, rimane proprio sotto il trasformatore, il trimmerino. Come c'era il 34, l'Intec 34 canali, cioè quel trimmer è quello dell'LC. Poi se è spostato, voi bisogna dovevo vedere, niente di strano. Ma se no te lo guardi a 1-1, basta che non vai nei trimmer che ci sono vicino al frontalino, quello non deve toccarti, perché c'è il dove c'è l'integrato messo in verticale, lì c'è un trimmer che è per la modulazione in FM, non c'entra niente. Poi l'altro lo Smith e l'altro non mi ricordo cos'è, la pop e l'altro è la ricezione. Ce ne sono tre di fila nel frontale. Lontano proprio da tutti, ce n'è uno al centro lontano da tutti, poi ce n'è uno un po' diverso che è nero, grande, che c'è scritto 2x2 vicino al finale, se non è quello. Devi provare, prova a girarlo, se vedi che la modulazione aumenta è quello, cosa vuol dire? Però ricordati com'è messo, in che posizione è messo, così lo rimetti com'era. E la ciappi subito, chi li chiama? Attenzione, dunque da qui si fate un po' c'è la Alessio. Un attimo, aspetta. Tipo quelli che mettono dei lineari nel finale. No, la cosa di ceramica di quelli che. Ho capito. Lo controlla lui, in questo momento lo sono preso, se aveva avuto la parecchia mano te l'avrei fatto subito. In questo momento io mi ricordo che era lì, poi si è ripreso quello, il modello, non so, mi ha chiamato, avanti. Ciao, bello, ciao. Chi l'ha chiamato? Chi è sparito? Giuseppe, ci sei? Sì, perché sto pagazzino, è brutto. Alessio? Figlia? Dimmi, cosa c'è? Saliti il 2009 su, cazzo di auro, che non, ti, non ne volete andare scemo. Saliti quello, attacchi quello a casa. Almeno lo guardiamo nei canali bassi e si muoveva più tranquilli. Va adesso, vado a svuotarlo, dai. Poco di casino questo canale, non si capisce più un tubo da questo cazzo di carte che ci sono. E cazzo. Oh, Antone. Meglia. Anche io provo a svuotare quello lì, dai. Che fatto adesso? Fatto nulla a me. Tu sei fatto adesso, poco fare più chiaro. Un'altra radio l'altra, guardate, è un'altra radio l'altra. Mamma mia, non ti sei scendi male. Ma gli ho fatto nulla, no, che non ho fatto niente, non ho toccato nulla ancora. Tu guardate i piedi allora, senz'altro, come dove vuoi ti dica. Stazionale non ce n'è, non lo so. Giuseppe, come l'ascolti il tuo Luigi? Alitto. Alessio, Alessio. Guarda a vedere. Ti hai palazzato, roba. E va bene, aspetta un attimino, eh. Guarda questo un po' cosa cambia. Guaglio. No, no, allora c'è qualcosa che non va. È sempre sastro, non lo so, non lo faccio. Non lo faccio. Questo non lo so. Non cambia nulla questo, vero? Beh. Un po' ci sei. Sì, oggi stai. E fece qualcuno. Ehi, aghi, buongiorno. Chi è sulla camionata, le buonasera? Non capisci? Chi? Ah, ciao, papi, di Vulcano, sono. Ehi, mi ha detto che non stavo andando bene, stavo facendo bene. Ma mi ha detto che non stavo facendo bene prima, con Pugno, che è stato, ma tanto ora. Ora va bene, tu mi dici che va bene. È positivo, dai, no, era un paracchino, volevo darlo a un amico però. Volevo cercarmi che andasse bene. È positivo, solo che col microfono suo mi pare non è. Questo non è il microfono. Con il microfono suo originale mi ha detto che non va bene. E il provo l'altro, così veloce veloce il microfono e mi dai una conferma. Questo è l'altro, Fabri. Questo ti sei abbassato parecchio, Fabri. Questo cosa c'ha? Stai parlando, c'è uno che mette la portante, arriva più il segnale più forte del tuo. Va bene, dai, tanto ho capito, dai. Ti lascio questo. Thank you. perché sto facendo delle prove con un apparato, volevo un suo giudizio. Bene, dai. Attenzione, attenzione, lei c'è adesso, Pompogno, ce ne va a copiare un binario 10, cambio. Scappa. Vabbè, quanti siete se vi vende già, migliore, se trovo qualcuno che mi dà 100 euro glieli do. Ma sono sempre forfettari, sono astratti queste cose qui, non è che si applicano soldi. E pesce, ma se li compra già, come i pacchetti, tipo sono i pacchetti a 300 milioni, no? Costano 120 euro, li comprano, ogni a tutti nulla. Tu dico, pur di giocare, li comprano. E se non nessun guadagno? Se non nessun guadagno, niente, sono virtuali. È gente pazza, quella è proprio gente che impazzisce per il gioco. Non riesco a spiegarmi come faccio a comprare una cosa che poi non ti rende. Vabbè, caro Gianni, vabbè, la gente è pazza. Io mi trovo l'altra volta, ho preso un pacchetto con un amico, 102 euro devo pagare, 50 euro a testa, 50 euro a testa. 150 milioni a testa, cazzo, cioè li ho presi, cioè contratti li ho presi, però se salivo, perché se salivo come me li faccio quei soldi, no? E ritrovi quelli, me li fa un pezzo buono, adesso no, te li vendono 100 milioni, te li vendono 50 euro, tu li vendi a 40, 35, 40 euro te li comprano, se ne lui, che te compra miliardi pure già. Allora guarda, per esempio, no? Faccio dei pacchetti del mio account. Allora, 320 milioni costano in euro, aspetta, 320 milioni, un pacchetto, 207 euro costano, più spese, fa diviene 220. È una famiglia che mi rimagna piuttosto che darle all'otto. E come avviene questa compravendita? Compravendita, a poi è una... Allora ti spiego, no? Quando tu vai a comprare le chips, praticamente funziona così, che tu una volta che metti i dati rimangono memorizzati, perciò quando carichi la PostPay va a succedere che quando tu vai a comprare sono tutti i dati memorizzati, poi quando dai l'ok lui compra, compra i pacchetti. Ah, capito, come ci fa sembri, dai. Ti devi mettere il cognome, l'incarta, scadenza e che pacchetto vuoi comprare, e lui stava. Ma va, guarda chi ha fatto questo programma, se poi di no è tipo Quartalk, no? Quartalk è un programma l'ho sentato tu, sono lì, ne fanno soldi, tu conta. Un nickname Viola costa 150 euro, 130 euro per un anno. E invece c'è il verde che costa 50 euro circa, e il blu costa una trentina di euro, 28 euro, 30 euro. Cioè tu vai, non trovi, guarda, su 200 nick ne trovi uno nero, tu sai, tutti colorati, tu fai la media di 50 euro a nick, su 200 nick c'è qualcuno viola, o qualcuno ha una ventina di nick viola, e qua sono rombo, ce ne sono, guarda, te ne dico uno, quanto ce ne sono. Allora, adult, ok, allora per esempio qua ci sono, tu conta, in una room 297 persone, nell'altra room 231, nell'altra room 155, cose a seguire, ma non vanno scendono, no? Sai i soldi che fanno, non hai un'idea, poi li spendono. Solo per colorarsi i nick. E che gusto c'è, no? Ah, colorarsi i nick vuol dire non avere pubblicità. Room che ci sono 100 persone, se sei vero tu non entri, il nick colorato entra perché fa 100, cioè la centunesima persona, poi puoi vedere il cambio a lungo, insomma hai tutte queste cose, cioè regali virtuali sono, no? Poi magari la persona ti sta simpatica, che ti piace, ti mandi il regalino, ti può mandare la rosa, ti può mandare lo champagne, insomma questi regali così sono gift, no? Catattine, ecco già, catattine varie. Poi man mano che tu spedisci queste, le ricevi ovviamente, no? Cioè devi ricevere. Questi regalini ti si accumulano piano piano e poi ti inizia la corona, il primo, cosa so, la corona, ecco, e inizia piano piano tu, questi virtuali, no? Questa corona come romano si diventa sempre più cresce, ecco, capito? Io mi stavo domandando mentre tu stavi parlando come si faccia nei tempi che siamo a buttare i soldi così. Già che c'ha soldi. Adesso tu dimmi, tu entri sul pranto, entri adesso, entri stanotte, entri domani, a che ora vuoi? Ci sono sempre una media di 200 roma adulti però. 250 persone, perché lì è diverso l'orario. Faccia finta a Matur Mendici che è sempre un ricattino. La passavo già. Sì. Allora, se tu la vedi nera è normale, la senti normale. Fra colori la fai verde viene a costare 1200 euro all'anno. Cioè, tu li fa sentire agli altri, quando mettono l'audio perfetto, cioè l'audio stereo. Ok, proprio perfetto, sente bene. Cazzo, però 1200 euro all'anno ti danno un mic colorato, la room colorata, per far sentire la musica bella, non ha niente pure di male perché si sente bene, no? Ma c'è 1200 euro all'anno, già, quelli sono belli. Per me sono tutte cazzate, no, forse perché sono appassionato molto in queste cose. Io l'ho avuto anche la chat, però questa cazzatina non l'ho mai fatta. Vabbè, si può fare dove ce l'avevo io, su Messenger, se avevo la chat, se era MSN. Ma si poteva fare diversi colori, cambiare il grafico, cambiare i tipi di, come si dice, caratteri della scrittura, grassetto, corsivo, eccetera, eccetera. No, questo è tutto diverso già. Facciamo andare un po' il barracchino. Aspetta un attimino. Ok. Andare. È tutto diverso, già l'acqua funziona così che, ripeto, il nickname te ne aveva la pubblicità, poi puoi vedere il cavo a lungo, se vuoi una persona che ti interessa, la camera la vedi, se è il nickname che è nero, ti dura 10 secondi, però non la vedi più, a meno che gli contatti MSN, verso MSN te la guardi, ma non è facile, capito? Trovi la persona che ti ha contato MSN e vai la vedi, si fa vedere, ma non tutte. Però lì ha la possibilità di vederla se... aspetta un attimo, se si fa vedere. Comunque vabbè, sono d'accordo con te, sono tutti soldi buttati, cazzate varie, ma anche sui poker, zinga dico, se sono soldi buttati. Però c'è gente non deve fregare niente, per farsi vedere dalle donne, cazzo, tu sei ricco, manda le bombe. Cioè si fanno vedere, io poco fa, una tipa gli arrivava una signora, una, forse a poco la tua età, 45 anni, 48 anni, una donna di Cagliari, è nata a Sassi, proprio da Cagliari, gli ho regalato 1 milione, ma ringraziato, grazie, ma perché era una persona, la verità, saluta sempre, molto educata, molto, c'è una cosa che mi fa si alle feste, ecco, e non è che mi conosce, però mi ha preso simpatia e gli ho arrivato 1 milione, era molto contenta, va, contentissima. C'è 1 milione lì su Zinga, non è facile farlo, magari sarà anche una questione di passione, di cose, non te lo so dire. Magari ti prendo, se lo faccio poi mi prendo anche a me, ma io ho proprio computer, te l'ho detto, mi ho abbandonato, non lo uso più mattina e sera, prima ho andato a casa, subito dato in Dio, a vedere si vera, ma c'avevo anche altri scopi là. Adesso non ho più, mi sono liberato di tutti. Nel senso che prima chattavo come persone, adesso non lo faccio più, ero troppo legato perché mi dicevano fatti sentire alle 6, ci troviamo alle 7, poi ho uso il baracchino, vado a tornare a casa, quindi cosa vi ho lasciato a prendere? Sì, allora, aspetta un attimo che ecco qua. Allora, stavo dicendo che lì funziona così, no? Aspetta un attimo, scusami già, aspetta. Ok, allora, se tu lì hai chips, no? Vabbè, diciamo che l'80% chi mette le... cioè non mettono tutti la propria foto, ma mettono foto prese da internet. E magari sei convinto che sia lì, invece non è lì. E magari pure, non so, ti attira, ti sta simpatica, magari hai tanti chips, allora ti sta lì, no, ti fa, non dico la corte, ma quasi, ma perché? Perché vuole chips, ma tu lì ci caschi e li regali, poi dipende da te. Ma devi stare attento dove ti bannano, Cioè, per esempio, tu hai 300 milioni e tu vuoi fare un regalo a questa qua che ti sta simpatica, come per esempio a me questa mamma mi sta, cioè, mi sta simpatica, una donna molto... come dire, ti fa le feste, no? Dico, non è che la conosco, vabbè, comunque, ti ho fatto questo regalino, ma sicuro che io chiudo adesso Facebook, lo riapro e sono bannato e ho preso 90 milioni. Guarda, qua c'è il moderatore. Sì, sono moderato e nascosti già, cioè ti fanno l'abuso, no? Tu magari sei un giocatore, c'è scritto abuso, tu mi fai l'abuso, tipo ci sono vabbè, delle varie cose da cliccare, tu vai per esempio su send a chips, mi fa l'abuso che tu mi hai visto inviando, regalando chips, e lì loro arriva la notifica e mi bannano. Allora, l'ho chiusa perché poi MSN non aveva più chat e cosa, era un bel bello, io e lei abbiamo fatto un bel incontri con gente di Milano, di Cagliari, abbiamo fatto le cene nei ristoranti, ne ho organizzato una, due, tre, quattro, io ne ho organizzato. Sono belle cose, sto rifacendo in gamma, già sono delle cose molto, molto interessanti. Ma trovare una persona in gamba sul web è proprio, guarda, è una cosa un po' difficile trovarla, ma comunque le trovi le persone in gamba. Comunque la maggior parte sono tutti pezzenti, capito? Già, aspetta 2 secondi che adesso mi preparo. Questa mattina sono riuscito a fare una commissione e adesso mi spoglio, mi metto il pigiama e... il piatto ha il piumone, quello c'è freschetto in capo, allora, arriva, aspetta. Giuseppe, prendiamo la testa, Giuseppe in bianco, Giuseppe ci sei. Giuseppino, Peppello. Giuseppe. Chi è? A me che tu sei quella fede che aveva fatto effetto. Non ho capito. Che non mi ha raccontato se la fede che ha fatto effetto. La fede? Sì. Vedo. Cosa faccio? La vasca non si accosse. Allora, te l'hai perché ci puliva l'intestino. Cazzo! Cioè sì, quando non mi ha fatto un... qualche virus che c'è nell'aria, non era quello, perché se avrebbe fatto male mi ha fatto male a tutti i due, scusa, abbiamo mangiato a mezza teglia per lui. Così, fa bombardare. Io però si è sentito che mi ha raccontato, una cosa, ti devo dire. Ti stavo dicendo, Giuseppe, non la metto più, e poi quando ti sei andato da lì cosa stavi facendo? Sono andato là e poi sono stato un'oretta parlando con quella signora e poi me ne sono andato. La dice poverina che ha avuto delle convulsioni, è stata male, ha la febbre alta, e ma e poi piano piano se ne sta andando, si sta spegnendo. Cosa è vero, perché questa figlia di questa signora con le convulsioni, si morsica la lingua. Non so se ne ho piccoli, devo guardare. Una c'è, qualcuno piccolo ce l'ho, devo controllare. No, mi fatemi, no, fatemi riposo, un'oretta. Allora, adesso mi sdrai, poi ci do chiacchiere con lui. Dopo controllo vedere quale tipo di elicottero posso comprare. Allora, mi fai vedere quello che compri tu. Se va bene, compro anch'io quello lì. Ma non compro quello dei carabinieri, compro quello della polizia, quello dei vigili del fuoco, se c'è. Carabinieri è un bel bello. A me mi piace un bel quello lì, però boh. Non lo so. Adesso vediamo. Ma Luca? Qua. Se ne vuoi uno per divertirti dentro a casa, te ne faccio comprare uno che è indistruttibile, costa anche, ed è, costa poco anche. Ah, ecco, casa no, già, devo vedere che non fa l'estate con questo, ma guarda che io ti fa qualcuno anche vostro qua dentro a casa, So che, vabbè, un casino perché è una casa piccola, però lo riesco a farlo volare, è in camera mia, se mi voglio. Però il problema è che non vuoi mi serve per furia, a me. Che aspetta, ma ce ne andiamo, adesso ci organizziamo, ce ne andiamo tutti via, come si chiama, Serrato, lì, già, facciamo un attimo un'altra volta, ci mettiamo lì nell'erbetta, va bene. Ma mi sa che abbiamo frequenze simili, Adesso in mega, sì. 40. 40 mega, mi telecomando, c'è scritto, telecomando. Io 40, sì. Tu mi vuoi dire che è bellino, guardate è bello, vedi, e poi di notte è più illuminato, guardate qua, bello di cotto, bello. Ma ce l'ha fatto pure la miseria, quello di me. Ma se me l'ultimo abito mi ha trattato, chi la costava? 61, mi ha lasciato 58. Ma non c'era portante? Ah, ce l'ha fatto, te la passo? Sì. Ah, che vuole passare, che cosa deve fare la portante? Via, vuol dire non ha altro da fare. No, invece a me fa piacere perché cancella il QRM. E vabbè, tu come ti ascoltano col baracchino, bene? Sì, nella versione del baracchino che è du. Baracchino è tu. No, ma non ho capito. Questo è il baracchino, il typhoon. Tu sembri un tappa. Anzi, ti stavo per dire che c'è la modulazione anche un po' eccessiva. Addirittura un po' eccessiva, che motore ho preso. No, non è il typhoon, poi il baracchino non è la pipa tu. Vabbè, torna bene. Avanti, ma che è rimasto? Giuseppe, riprendi. Sì, ma perdonami, non è vero neanche quello, perché se al K riesce a abbinare come ha fatto Fabrizio, ma vabbè che forse lui non ce l'ha sul K, però comunque si può abbinare l'MB più 9 e l'MB più 9 ce l'ha il B. Ma un B di baracchino, cioè baracchino tipo Tornado, il Typhoon, eccetera eccetera. Vabbè. Sto a posto della pantalone. Sono più abituato al baracchino perché vedendo il cable è tutto illuminato e vedere il baracchino con questo smitter illuminato, c'è poca luce, a me non ci ho perso la mano, ecco. Io sto uscendo di testa invece per cercare le mascherine. Le avevo trovate, poi mi hanno restituito i soldi perché dice che non ce ne avevano più. Ma mascherine di 140? Stato. Sta qua è nuova la mia, non c'è. È nuova. È nuova, nuova. Vabbè. Che puro quel po' che domenica allucinante, non so, sa pulire la camera, fai qua, fai là, sono fatto a mangiare, tutto mostrato delle divise, tutte le magliette, le camicie. Qua, sono un grimbando. C'è le cose che devo fare, non le devo fare io. Perché basta metterci a fianco una donna? Basta metterci a fianco una donna? No, c'è mia madre, non è che siamo maschi mia madre. E allora fa le parelli se te la fa. Ma tu però potresti abbassare un po' il microfono, poco a poco. Allora credo, guarda un po'. 1, 2, 3, prova. Questo va meglio, forse mai. Allora, questo macchino mio, quando apro le refrigerino, no? Allora succede che ascolta i segnali fuochi tipo il tuo, Gianni, tutti e mi hanno detto volevo cambiare l'integrato audio. Cosa hai detto già, vi siete sovramodulati? Che ti sento colpa anche io a te. Aspetta, che col K, aspetta. Perché questa è il coso, ma stai dicendo a me sì? Beh. Perché dovrei abbassare un attimino, ma faccio prima a fare così, guarda. Basta che la chiarifichi la voce, guarda, la stai già chiarificando. Allora, ma ti spiego, un baracchino, scusami, un baracchino. Pacchini, lui cioè, c'è quella radio lì, secondo me c'è un 440, non male che la ascoltiamo troppo potente, però vedi, io comunque non sento male perché i filtri. Guarda un po' adesso, ola ola ola, 1, 2, 3, prova. Ti ascolto bene la tua K. A prescindere ho cambiato anche il microfono, questo è l'MC60. Ah, io credimi a tua, non è che voglio dirti niente a te. Se è troppo, l'MC60 lascia solo quello, non metto più la più 4. Purtroppo ho soltanto costretto perché con il microfono normale fa schifo questa radio, esce male. Però se compro l'MC60 uso solo quello. Ma credimi, perché non... cioè, proprio la mia... va bene, è un abbinamento giusto, corretto. Ma pure i microfoni a guida di citti. Ma indubbiamente, ma succede questo, guarda, per assurdo, non so per quale motivo, però forse per un'apertura diversa della LC, su uno funziona benissimo l'MC60, sull'altro funziona benissimo e meglio l'MB+5, quindi nel momento in cui adesso mi faccio la stazione fissa, sicuramente terrò fisso su uno e sull'altro i rispettivi microfoni. Ma anch'io, adesso mi devo... sono in giretto, se tu fai quella seconda mano, che, insomma... la spenderei molto, lo compro almeno mi lascio solo quello, non mi dico qua, lo lascio vabbè, a parte il fatto che adesso devo comprare un ripiano qua, c'è un mobiletto nuovo, vediamo un po', se trovo qualcosa da configurare anche da modificare, così mi metto l'alimentatore proprio nel mobile a fianco, fa un supporto per mettere l'alimentatore per non lasciare in terra. Poi tutti i fili messi bene, magari la cosa fatta bene. Poi, se riesco a comprarmi 4,40, bene, se no mi compro la T250, faccio una bella station. 2,60, T250, alimentatore suo, vediamo là quello che riesco a fare. E se no, non lo so. Guarda, il consiglio che ti posso dare io è comunque, se puoi, se economicamente puoi, nel senso che non hai bisogno di venderti uno per l'altro, tienitelo col 140. Allora, mi tengo, va. Ti posso garantire che funziona benissimo, ma veramente il patate è nuovo, tenuto bene, io la cosa la tengo bene. Il problema è che se mi compro un'altra radio, questa radio, cosa ne faccio? Io non c'ho spazio. Tanto, c'è uno spazio. No, indubbiamente, però ti sto dicendo, proprio perché hai tenuto bene, perché quello lì, guarda, è l'unica, se tu guardi tutto il resto è mondezza, tu guardi tutti i baracchini, sono baracchi, ma anche gli apparati, sono apparati che scendono di prezzo e basta. Quelli che tengono il prezzo sono i Kenwood, non ve ne è, proprio da... Io stavo guardando, a furia di guardare sui siti, ti rendi conto che... incappi in alcune inserzioni che sono sicuramente vecchie, obsolete, quindi del 2009, del 2007, beh, questi apparati li trovi sempre allo stesso prezzo. Sì, sì, beh, certo, tengono sempre mercato, ecco. Ma vabbè, dipende, c'è quello da 3,50, l'altro da 2,50, quindi io mi sono stato, cioè, mi ho, sono perso un'occasione. Un 140 la larghiera 200 euro, dice che era perfetto, mannaggia, avevo i soldi, guarda, lo chiamavo subito, anzi, adesso è fatto in diretta, dai, così ne approfitto, se trovo qualcosa, poi vediamo un po', dai, riprendi già. Io sono accampato adesso, c'ho tutto sul colorino, se vedi che ho messo la roba, tutto attorno alla bajou, ho messo il catalimentatore, l'apparato, il microfono, tutto attorno alla bajou, così, perché sono un po' accampato adesso. Papà di Roger, ma ti stavo dicendo, a quant'è che l'hai trovato, Lu? A uno su Ebenisa, non mi ricordo se era su Ebenisa. O su subito.it, un 4,40 larghiera 200 euro, la guardata. Se 200 euro mi sarei venduto tutto a pugliare di prendere, intanto lo rivendevi al volo. Purtroppo non sapevo come fare. Devo curare questo, Claudio poteva perché la purtroppo sono lì, l'avevo già speso, avevo avuto spese. Se no avrebbe preso lui, io l'ho trovato un po' come se ne aveva andato con Claudio. Ma purtroppo non vedi, anche una T250 209 l'ho ripreso, ma purtroppo ci sono state spese, non ho potuto fare l'acquisto. Da correttamente io ti dico che l'ho pagato 386 euro ed è un affare di 4,40. Se tu mi avessi detto mi servono 200 euro per prenderlo, correttamente te l'avrei preso e te l'avrei dato, poi me l'avresti restituiti quando volevi. Vabbè, non è che posso chiedere una all'altro, io ho un cardio, non ho problemi. Quando può, la verità, questo non te lo posso dire, anche quando, cioè, anche siamo fuori sede, ecco. Senza questi apparati, dico. Ma quando ha potuto la vita me li ha sempre prestati. Io sono stato sempre puntuale. La prima cosa, se io ti chiedo, non so, 50 euro, la prima cosa che faccio è ritiro a sapere i soldi. Guarda, io quando non ci dormo la notte, posso mettere anche 20 euro. Non ci dormo, però che dico, non ho pagato, ma qua non c'è problema, io tale giorno. Se io ti chiedo, per esempio, 800 euro adesso, no? Non mi servono per dire, no? Dico, io il giorno 15, puntuale, ti chiamo e te li do. E il giorno 15 ti saranno restituiti. Guarda, sulla generosità di Claudio credo che non ci siano assolutamente persone che possono dire il contrario. Quindi assolutamente ci credo, ci mancherebbe. Però ti sto dicendo, la prossima volta, per un'occasione così, punta pure su di me, non ti preoccupare. Magari lo prendo io e poi sulla parola sappi che te lo restituisco appena mi dai i soldi. Ti sono proprio, ti ripeto, io non dormo per queste cose. Non dormo. Non ho mai avuto problemi, la verità. Guarda, un giorno che mi ha prestato 600 euro, fatelo dire ai contanti. Non fare tutto avuto una pronuncia troppo alta. Città, io sapete non te restituisco. E così è stato. No, per quello no. Chi si è mai avuto problemi con lui? Mai. Mai, mai. Ma non è che dire, guarda che ha avuto problemi, nulla. Il primo pensiero è ritirare i soldi e restituirli a chi mi ha prestato. Io ve l'appoggio. Oh, non ha giù preso nulla di queste due cose inferrite. Ne ho girato due, saliva, scendeva, però rimaneva sempre massimo a 5. Bisogna poter girato. Vabbè. Chissà che adesso è incasinato e secondo come te lo tieni? Io per le frequenze, secondo quello che toccate ce li ho preoccupati. Prigato, c'è stato quel cavo del 4,40. Aspetta. Che vuole. Ecco, l'inventatore ha fatto le proposte, ha fatto pure cassa MC60, l'inventatore che non è quello, è un inventatore di linea, 800 euro vuole. È un bel, troppo. Ti ripeto, l'apparato tiene il prezzo, nel senso che se tu vai a vedere un 857 della Yaesu che all'origine costa 750-800 euro, dopo un anno te lo stanno rivendendo già al massimo a 500 euro. 500 euro vogliono dire, stiamo parlando di un quadriband, una radio ottima, che comunque ha un calo micidiale. Se tu vai a vedere il Kenwood, il 440, per quanto sia una radio di 20 anni fa, 20 anni fa costa, che non è un HF, costa al pari di quanto costa uno Yaesu vecchio di massimo 2 anni. Questo ti dice tutto. Sì, signora, ti credo, ci mancherebbe. Ti credo. Vabbè, troppo. È così, caro Antonio, è così. Aspetta che devo fare un'altra cosa, vai. Mi aspetto 10 minuti, così lo facciamo, non lo puliamo, ripeti già le facciamo. Adesso vedo che si sta rompendo gli apparati, cioè 240 più 440, hai dato che? Attivo, io non ho mai comprato apparati di questo genere, di quello che tu hai detto, che si sappia. E comunque non è ancora arrivato, no? Allora, mi stavo sbagliando con qualcun altro. Veramente. Comunque le poste italiane fai prima, secondo me, se sei a Genova e vuoi far arrivare un pacco in Sardegna, a buttarlo in acqua e aspettare che arrivi, forse ci mette meno tempo. Tu immaginati, è stato spedito mercoledì, giovedì, venerdì, sabato che consegnano, domenica chiaramente non consegnano, forse domani. Io dal tracking vedo che a tutt'oggi è fermo allo smistamento di Milano, figurati. Infatti, quando si spedisce un pacco per il continente, conviene assolutamente prendere il foglio del reclamo e ti fai restituire i soldi. A te, a tu. No, non so, ma te lo consegnano. Che consegnano? La KDL? E se consegna? Per me meno, caso SD non consegna sabato. Non vorrei sbagliare, però quantomeno c'è il consegno lì a mano, perché io sono andato sabato mattina lì e mi hanno detto no, non è ancora arrivato. Avanti Luca. Se tu guardi su eBay c'è la P250, praticamente gli ho fatto un'offerta di 101 euro e ci mancano tempo 5 giorni e 6 ore. Oh, vedrai quanto sale, figurati, se è già così almeno il triplo, guarda, non il triplo ma il doppio, buoni sì. Guarda invece quanto sono gli Yaesu 857 quadribanda. Già, no, sono tutto già, e quindi fatti la... guarda, non lo roba, insomma, un po' graffietti, quanti graffietti non c'ho. Vedi, vabbè. Quanto ne vuole, ma sto a fare a culo. Antenna, no, antenna, due antenna, cazzo, ci possono mettere 4 antenne, minchia, antenna 1, antenna 2, antenna 4 e input, però non c'è nuovo il telefono, non c'è niente, come fa a contattare questo qua? Ciao, qua la di l'offerta. Ma io stavo scherzando, cosa me la faccio che non c'è manca parecchi per metterci quella bomba lì? Mi voglio guidare quell'elicottero, mi piace il gruppo. Poniamo. Dimmi. Vuoi che ti faccia vedere queste cose qua, quelle che ti ho detto? Sì, ti ho fatto, non c'è problema. Capito cosa? Quelle cose piccole che mi avevi detto di farti vedere. Farmi vedere? Sei così a costringerti nome. Ma il fumo sta venendo. Ho capito. Vedi già. Sta venendo il fumo. No, negativo, dei PMR che si vuole prendere Antonello. Ce l'ho piccolini purtroppo. Ne servono due come si deve. Capito? Perché io li uso per fare antenne e cose del genere. Tanto per me non ci sono problemi, non è che mi stai costringendo, a me mi fa piacere vedere questi apparecchietti, sono belli, me li metto a letto, come per quel pezzo che mi hai detto ieri, mi conviene più piacere quelli che l'altro che mi hanno letto, capito? Tra l'altro è un come era, e mi banda e quindi, capito? Ma te l'ho detto, io non so adesso chi ti abbia fatto questa offerta, quindi non entro. Prima di saperlo ti dico che a quel prezzo che ti hanno detto è non un furto, di più, proprio peggio, perché questi apparecchi qua costano, ormai non costano niente, e credimi, sono molto più potenti, hanno un range di frequenze superiore, quindi digli che vada, e fra l'altro di seconda mano, Buru. Esatto, di seconda mano, sì. Cosa vuoi ti dica? Sapevo che c'era quella... Vabbè, io internet non ce l'ho, e quindi non ne posso sapere nulla di te, non di niente. Ma cosa? Ezio! Dica! Allora! Dice 155 euro compra subito. Allora il PC è dotato di Avanti Essenza 5220, un gigabyte di RAM, un disco da 80 GB, cioè il PC in buone condizioni, 150 euro, vale la pena? No, negativo, usato? Certo, poi c'è un vuoto qua, Essenza 5220, va bene? So che questo è a posto di check, di tutto. Sto pensando, gira. Cosa? Perché il tuo non lo apri e ti sostituisce o ti rimetti a posto i jack, scusa? No, cosa che lo posso fare io, no, no, non lascio aperto. Quando me ne ha spedito uno con la mia amica, non lo so, praticamente l'accende si spegne. E gli ho detto che c'è la scheda madre bruciata, adesso l'ho fatto tutto a pezzi, a terzano ci vuole Gesù Cristo. E pensavo che i jet erano uguali, cioè nel traccio di musica, ma i connettori, ecco. Uguali sono uguali, però a risaldarli ci vuole uno saldatore adatto. Lo so, ma con un saldatorino che ha basso, come si dice? Ha un basso vantaggio, ce la dovresti fare. Guarda un pochettino. Dimmi, sono qua. E guarda, lo scegli il tuo apparato qua. Ho capito, cosa hai detto? Sceglie? Lo scegli il tuo apparato, cambia. Io già lo sento già, ma c'è questa che affermo che ti gribba, ti segnale. Ce l'ho sento per il 2009, siete il Bibbi. Avanti Gianni. Vado avanti per salutarvi, che qua devono riposare, quindi devo chiudere. Ci sentiamo alle prossime. Buona serata e buon questo. Però Giorgio, grazie Gianni, potrà cambiare al 100, dai. Allora, passo a portarti questa cosa, io. Appena scendi che te lo allungo. Ehi, va bene, tanto ci devo scendere il canale adesso un attimino. Ripeti Luca intanto, dai, scendo subito giù, che è già troppo qua. Tu sei tu che fammi sistemare l'antenna poco fa, perché se no arriva la c'è la tappa mollata. Se mi sarei trattenuto, stavolta l'avrei visto tutto il palo in terra. Aspetta un attimino, alle 2 minuti, che secondo come mi aiuta, anzi dai, mi aiuta Luca, io arrivo fra un attimo, abbi pazienza almeno 10 minuti. Fai, tanto sto facendo una cosa io, ti aiuto subito. Mi aiuto, di tutto. Che mi aiuti un attimino, che ho un apparato, un baracchino che sta uscendo, che è quello che mi voglio mettere in macchina, rimettere in macchina. Sta uscendo male, gli devo sistemare la modulazione. Sì, sono qua. Siccome è il mio fratello, no? Pagato se mi chiamo la 1300, attimo sul guardo un nuvole dopo, ho detto che è venuta. Io lo pago, non c'è problema. Non mi volta, no, volevo le dare. No, vuole le 300. Magari per ricordare, aspetta un attimo che cambia. Luca, attenzione Luca, attenzione. giro, se girando questo trimmer così va meglio. Ola, ola, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. No. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Prova, ritorna, scusa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, la radio mi interessa, eh. Siete più chiara. Aspetta un attimino se giro questa cosa così, guarda, un attimino, aumentando. Ola, ola, ola, ola, ola. Ca. Ehi, la prova. Magari, guarda un po'. Tanto se siete cupo non si capisce niente. Sei cupo? Prima la chiesa, come la prima. Aspetta, calmo, guarda così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Qui vai, fai il passaggio. 1, 2, 3, guarda se posso aumentare ancora di più. Facciamola così. Aspetta che adesso devo aumentare la modulazione. Dimmi se la modulazione aumenta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, guarda così. Ma se prova la modulazione? Non cambia, proprio nulla. Ehi, se vuol dire il Dio, non mi intendi? Aspetta che provo a girare una vite. Guarda un po'. Come esce adesso? Preoccupa. Guarda adesso un po', ola, ola, ola. Dai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Prova, di nuovo. È amplificata o non è amplificata? Ma tu, di cos'è che cupa? Aspetta un attimo. Così non dovrebbe esserlo, boh, cosa vuoi ti dica? Sto rigirando le manopole. Ma solo così la tocca anche il che ti tocca, cosa? Il cagino lo sto cazzo di FBAM che fa troppo brutto. Perfetta, chiara, se vuole perfetta, è radio perfetta. Ascolta, prova a passare un attimino in FM, una simile, perché mi scompare l'FM a volte a seconda di come giro questo trimmer. Mi dispiace, ma io ho questo apparecchio, l'apparecchio qua, ce l'ho l'FM, dai, devo un attimo commentarmi l'altro e andare in FM un attimo. No, che da Luca, Luca vai in FM un attimo. Luca. Sì, ma vai. Ciao Massi. Aspetta un attimino, allora ti spiego, non mi esce in FM quando faccio questo, quando aumento troppo. Adesso devo diminuire piano piano finché mi risenti in FM. Ok, va. Guarda adesso. Papà, saccio. Ho messo una piccola resistenza, capito lui, e mezzo. Guarda, che non si vede, guarda, veramente, guarda, non dico perfetta, ma quasi, ma la radio, ottima, guarda, non dico fesserie, poi, se c'è qualcuno che sta ascoltando mi confermi, ma la radio, è meglio di quella cosa non vende di più 5, questa è chiara, chiara, bella, ma la radio. Quindi ho fatto un'altra delle mie, allora, va. Allora, mi la sto stringendo, una rondellina le lascio a questo. Se ti fidi di me, è una bellissima radio. Se mi si ritiene così, la lascio così, da. Scusati, questa che va benissimo, è meglio dell'altra, secondo me. L'altra è troppo forte, troppo brutto, infatti. Positivo, allora, mi, questo qua, l'MP25, me lo metto di nuovo in questo Mobicom. E te lo faccio ascoltare e mi dici lo stesso il tuo parere. Ok. Luca, guarda un po' questo Mobico. Che è? Da bassa? Sì, è già baciato. Vedi un po', allora. Così ha tre amplificazione, guarda. Sono già massimo, è stato cavolo, c'è la camera chiusa. Aspetta, ma non è che potevo aprire appena appena in tone, guarda, se lo metto così si schiarisce. E rifà il passaggio qua? Guarda, vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non metti la paperina, è nasina, Massimiliano. È nasina? Sai che abbiamo guardato il naso. Così ha cambiato? Sì, uguale, ma non ha cambiato niente. Non so, c'è qualcuno che mi sta ascoltando. Mi confermi, magari, cazzo. Non so, non so che dirti. Perché questo microfono mi hanno detto che andava bene anche in questa radio, e poi non lo so, Ti sta ascoltando un 140, lo sai, no? E comunque la radio anche questa va bene come, cioè, presente, forte. È fortissima, solo che è più forte, più piena la radio parecchio. Allora aspetta, così, fidati un po' perché mi è più 5.